siamo dei e ci muoviamo nello spazio profondo. Corriamo dietro ai tuoni, ci pettiniamo e aspettiamo la fine del mondo. Mentre tu, povero uomo, non sei niente di speciale. Siamo dei figli del sole, invece tu chi sei? Tuo padre è stato il dolore. Un momento, anch'io qualche argomento. Ho un amico che è un campione di rock, riesce a ballare per tre giorni e tre notti senza doversi fermare. È un altro che ha la voce da basso e con una mira che ti stacca la coda di un cane con un sasso se lo tira. E poi io, un grande amore, un amore di ragazza che mi aspetta e se non torno esce pazza dal dolore, povere. Ed ogni estate do il mio voto, vado al mare e resto nudo tutto il giorno. Fa molto bene abbronzarsi e poi nuotare, se mi vedessi quando torno. Ma cosa credi di fare? Dove credi di andare? Non hai più aria per poter respirare, non c'è nessuno che ti possa aiutare. Ed ogni giorno che vola via scopri di avere una nuova malattia. Siamo dei e la tua vita è un inferno, o qualche cosa di più atroce. Potresti vivere anche tu in eterno, se ti pentissi e si abbassasse un po' la voce.